תפילה קודם לימוד הזוהר מארי הקדוש זיכרונו לברכה. פרגיירה פרימה די אימפרארה לא זוהר, די אריזל. Maestro dei mondi e Signore dei Signori, Padre di misericordia e perdono, ti ringraziamo, Avaya, nostro Elohim, Elohim dei nostri antenati, inchinandoci e inginocchiandoci, che tu ci hai avvicinato alla tua Torah e al tuo santo servizio. Tu ci hai iniziato nei misteri della tua santa Torah. Cosa siamo noi? Come è la nostra vita che tu hai dato a noi tanta misericordia? Per questo motivo diamo la nostra preghiera e ci inginocchiamo davanti a te, perché tu dai misericordia. E tu perdoni tutte le nostre trasgressioni e peccati. Possono i nostri peccati non portare separazione tra noi e te? Per questa ragione possa essere la tua volontà, Avaya, nostro Elohim, Elohim dei nostri antenati, di armonizzare i nostri cuori in modo tale che temeremo e ameremo te. Ascolta le nostre parole e apri i nostri cuori incirconcisi ai misteri della tua Torah. Possa il nostro studio che stiamo per fare davanti al trono della tua gloria essere piacevole come una piacevole fragranza. Splenda su noi la luce della sorgente delle nostre anime in tutte le nostre condizioni. Possano le scintille dei tuoi santi servitori brillare attraverso le quali tu hai rivelato queste parole al mondo. Possano i loro meriti e quelli dei loro antenati ai meriti del loro studio e purezza assisterci, così da non incimpare sul soggetto delle parole che stiamo per imparare. Possa tu splendere su di noi per i loro meriti, da quello che impariamo come una piacevole espressione di lode di Israele. Apri i miei occhi, così io vedrò le meraviglie della tua Torah. Lezione 1. È giunto il tempo per imparare lo Zohar. Ci viene dato in questo tempo. Ogni generazione ha una possibilità e noi dobbiamo cogliere quell'occasione. Nel tempo di Mosè fu data anche una possibilità. Mosè disse che non poteva parlare perché la sua bocca non stava bene. In quel tempo la possibilità è stata in parte utilizzata con la costruzione del vitello d'oro. E anche a Noè è stata data la possibilità. Aveva costruito l'arca per 120 anni. Il Creatore gli aveva chiesto di costruire l'arca con rispetto per tutti. E le persone ridevano di lui. Ad ogni generazione sono state date le possibilità. Ramchal, Ari. Ma non in questa generazione siamo già preparati a sentire. Siamo venuti così in basso, quindi in un modo molto alto, nel nostro ego, che possiamo capire e prendere ciò che è detto nello Zohar. Le lezioni sono per gli studenti in quella generazione e per tutte le generazioni a venire. Fino alla vigilia dell'arrivo del Messia c'è solo lo Zohar. Arriveranno forse a raffinamenti, ma nient'altro che possa portarci la liberazione, il salvataggio e la realizzazione. Inconsciamente lo Zohar ci porta a un livello sempre più profondo della nostra liberazione. È quindi necessario che queste lezioni in questa generazione ti saranno anche dette. Questo è qualcosa che deve accadere. Nulla viene da sopra se non è risvegliato qui. Solo portando te stesso in armonia con ciò che è sopra di noi, i miracoli possono e accadranno. Perché? Tu hai fatto te stesso ricettivo. È importante che tu desideri ricevere la luce che Zohar ti porta, in modo così che puoi venire in unione con ciò che leggi e senti. Non c'è sofferenza nel mondo spirituale. Lo Zohar non usa alcuna parola riguardante la sofferenza. Quello che sempre succede, non si tratta mai di sofferenza. Giustifica tutto. Qualunque cosa tu fai, fallo con gioia. L'esperienza della sofferenza come tale viene solo dalla nostra mancanza di correttezza. Non cercare di ricordare nulla, perché quello è uno strumento del nostro mondo. Cerca di assorbirlo in te. Portati in accordo con le parole che leggi e ascolti, o ascolti, in modo che ti unisca con esse. Che è il miracolo quello che accadrà. Lo Zohar è stato scritto in aramaico. L'aramaico dello Zohar è la forza più interna dell'universo. La lingua ebraica della Torah è il primo guscio che copre l'aramaico. Leggendolo prima in lingua aramaica, si tende verso il guscio più interno. Quindi, quando inizi a leggerlo in ebraico, raggiungi il primo involucro e lo leggi finemente nella tua propria lingua. L'accento nell'ebraico si trova generalmente sull'ultima sillaba, che non è il caso nel aramaico. L'aramaico è come la lingua ebraica scritta da destra a sinistra, o da corretto a non corretto. È compito di Israele rendersi trasparenti, portare il superiore prima a se stessi e poi a tutti i popoli. Israele è la forza destra dell'uomo e i popoli sono la forza sinistra di un uomo. Dal lato destro arriva la luce, dal lato sinistro arriva la saggezza, e la verità sta nel mezzo. Questo mezzo è anche chiamato la Torah. Questa è la vita. Lo Zohar completo parla del percorso di mezzo. 10 uomini saggi hanno preso parte a scrivere questo libro sotto la guida di Rashbi. Citano in primo luogo una parte dei 24 libri di Tanakh e poi hanno dato il loro commento. Come i processi mentali devono essere compresi che si svolgono nel libro. Non pensare alle persone se vedi i nomi, perché esso riguarda solo le forze della creazione. Non riguarda le persone di carne e sangue. Una volta, un tempo, c'erano persone di carne e sangue sulla terra. Ma quello non è riguardo allo Zohar. Le forze impure vogliono volentieri approfittare della vera luce. Imparando lo Zohar, tutti i tipi di forze cercheranno di trattenerci dall'essere impegnati con lo Zohar. Anche nel fare. Se trovi la forza per continuare ad imparare il Zohar, le forze impure diranno: questo non è niente per te. Tu non devi fare questo. Il tuo ego i tuoi rudimenti di base, i profitti della tua sofferenza, le forze oscurate, e non c'è forza oscura mentre stai imparando lo Zohar. Se una parola finisce su una vocale e la parola successiva inizia con una bet, pe, kaf, la pronunci come fet, fe, kaf. Le figure sono sempre indicate nel libro ebraico con caratteri. Ot, paragrafo, alef, 1. Ma'amar, soggetto, ha Shoshana, il giglio. Rabbi Hizkia ha iniziato a dimostrare con il versetto come il giglio sotto le spine. Chiede: qual è il giglio? E lui risponde: lei è la comunità di Israele, che è Malchut, perché c'è un giglio e vi è un giglio, proprio come il giglio tra le spine. È di colore rosso e bianco, come la rosa. Anche la comunità di Israele è influenzata dalle qualità del giudizio e della misericordia, proprio come il giglio ha 13 foglie. Così la comunità di Israele è circondata da 13 attributi di misericordia. Così il nome Elohim, come dalla prima indicazione che nel passaggio appare, in principio Elohim creò, in Bereshit 1:1, alla seconda indicazione di Elohim ha prodotto 13 parole nel verso, lui che si tradusse come il cielo è la terra, il cielo è la terra e la terra era senza forma, è vuoto, è l'oscurità, era sulla superficie della profondità, è lo spirito. Queste parole circondano e monitorano la comunità di Israele. Traduzione di Yehuda Ashlag. Pagina 1, colonna destra, approssimativamente nel mezzo. Rabbi Hizkia patach vichule. Rabbi Hizkia ha iniziato, eccetera, eccetera. Per aprire il verso, il libro o la Torah, la dimostrazione, la sua bocca. È scritto, Rabbi abbreviato, significa rabbino. È scritto, Katuv è scritto. Che Shoshana ben Hachochim. Come un giglio sotto le spine. Devi essere preparato a lottare per l'unità del mondo, ma ciò è possibile solo se diventi perfetto indipendente da tutte le altre persone. Solo allora puoi amare l'intera umanità, essere uno con le forze dell'universo, che è amore. Le persone del nostro mondo traducono Shoshana ben Hachochim, giglio sotto le spine, con la loro comprensione terrena, il giglio come una rosa, perché è scritto sotto le spine. Mentre esso è il giglio, perché proviene dal secondo capitolo di Shir HaShirim. E lì il re Salomone parla del giglio. Giglio, non il giglio il fiore stesso ha la qualità per fare alcuni confronti. C'è qualcosa in esso da un giglio e da una rosa. Entrambe le qualità e non riguarda noi se qualcosa esiste o no. Perché lo Zohar non parla una sola parola riguardo al nostro mondo. Ma come possiamo imparare diversamente dall'uso delle parole del nostro mondo? Lo Zohar completo ha uno scopo, quello di portare l'uomo ad un certo punto, al di fuori della gravità, mentre sperimenta la gravità, otterremo una nuova dimensione di vita, la delicata linea del mezzo. Dobbiamo sperimentare le parole di Zohar, così com'è. Non cercare di portarlo nella rima con ogni cosa che conosciamo. La nostra conoscenza deve essere eliminata ora. Come possiamo sperimentare una dimensione sconosciuta di eternità? Sperimentare significa che ti estrai separatamente dall'intelletto terrestre. Ma nessuno ti porta via il tuo intelletto terreno. Cioè, lui chiede, Man Shoshana, qual è il giglio? E lui risponde, Zohi Knesset Yisrael. Lei è il gruppo Knesset di Israele. Questo non ha nulla a che fare con Israele di carne e sangue. Solo se si collegano con le loro radici spirituali. Ma ogni cosa ha a che fare con le forze spirituali. Non devi pensare sul Knesset come al Parlamento, perché nessuna parola è della detta riguardo al nostro mondo, non nello Zohar, non nella Torah. Impareremo cosa significa il cielo, la terra, eccetera, perché non ci sono altri modi per usare il linguaggio del nostro mondo. L'aramaico e l'ebraico della Torah sono stati preservati, autentici, in cui tutte le forze dell'universo rimangono nella loro forma autentica. Non fare alcuna performance, perché è sbagliato a priori. Comprendere con la tua testa non ti porterà da nessuna parte nello spirituale, solo quando sperimentiamo. L'esperienza porta alla comprensione. Lasciati guardare dallo Zohar. Non abbiamo fretta con lo Zohar. Se facciamo un solo verso può già essere sufficiente, perché non abbiamo ancora i Kelim. Porte senza senso per darci un sentimento dello spirituale. In altre parole, non avete aperto le porte alla nutrizione spirituale. Gradualmente la luce di Zohar intaglierà leggermente in te, nel tuo io interiore. Ora è una sequenza di eventi, di mangiare, bere e sesso, eccetera. Non mantenere la tendenza al tuo io. Tu non perderai il tuo io, ma lascia che lo Zohar faccia il suo lavoro. Fai te stesso come cera di una candela, ricettivo e gentile, e farti morbido così da poter creare solchi in cui la luce dello Zohar può brillare leggermente. Malchut, quella è Malchut. Malchut del mondo Azzilut. Ogni cosa ha 10 sefirot, e la più bassa Malchut è la raccolta di tutti i punti di forza. In altre parole, Malchut è la reale creazione. Domanda di un partecipante al corso. Il fisico? No, non parliamo del fisico. Ci sono 10 emanazioni di luce. Le 9 superiori sono proprietà della luce stessa, qualità del creatore. E la 10ª è Malchut. È la creazione stessa. Perché il creatore voleva creare una creazione che sarebbe stata unica. Ma la Malchut ha anche 10 in se stessa. 9 delle Malchut sono anche proprietà della luce stessa. Solo Malchut, de Malchut, è la reale creazione. Pian piano, non andiamo oltre. Poi lo Zohar ci indicherà. Do una piccola spiegazione sul Sulam. Il commento dello Zohar. Il commento dello Zohar. Ma lasciamo che lo Zohar sia la nostra guida. De it shoshana vi it shoshana. Perché lì esiste un giglio e lì esiste un giglio. Come se un altro giglio. Lui vuole tracciare un confronto tra due forme, due situazioni di giglio. Ma Shoshana ben Achochim, proprio come un giglio che è sotto le spine, Yeshba Adom ha quel giglio rosso. Vechava è bianco in sé. Abbiamo detto che intendiamo giglio, ma tuttavia ci sono un po' di proprietà di una rosa in essa. Il rosso è il bianco. Av Knesset Israel, anche il gruppo Knesset Israel, Israele, una tipo di forza, Malchut del mondo Atzilut. Yesh Ba'adin ha in sé la severità. Verachamim è misericordia. Guarda ora quale confronto lo Zohar attinge per portarci centimetro dopo centimetro, il sentimento per questa famiglia spirituale. Knesset Israele e la Malchut. Da qui tutto il bene viene a noi. Bianco o chiaro, non ha forze impure, è il rosso, le ha. Knesset Israele ha anche severità, din. È misericordia, rachamim, in se stessa. Perché la creazione è costruita da quelle due forze. Misericordia e severità. Non possiamo senza queste due forze. Come dobbiamo trattare con queste forze, lo Zohar ci imparerà. Ma Shoshana Yeshba 13 Alim, Yud Gimil Alim. Proprio come un giglio ha 13 foglie. Kach Knesset Yisrael. Anche Knesset Yisrael. Yesh ba Yud Gimil Midot Rachamim. Ha 13 qualità di misericordia. Amisavavot ota mikol tzadadea, che la circonda da tutti i lati. Questo è il secondo confronto. Così Il bianco e il rosso del giglio corrisponde con Din e Rahamin. E un altro elemento del giglio è che un giglio ha 13 fogli. Anche la Knesset Israele, il Knesset Israele nell'ebraico, è circondata da 13 qualità di misericordia. Lo puoi immaginare? Così tutti noi che stiamo imparando la Kabbalah, quelli che sono pronti a portarsi in accordo con Malchut, Knesset Yisrael, impareremo tutti da quelle forze amministrative superiori. Mentre stiamo imparando, lasciamo lo stesso intaglio di 13 proprietà di misericordia in noi stessi. Saremo circondati dalle 13 proprietà della misericordia. Ach, Af Elohim, anche Elohim. Il nome del creatore che si riferisce al suo atteggiamento nei confronti delle creazioni inferiori sotto la legge Din. Severità. Che cosa significa tutto viene più tardi? Lasciamo parlare lo Zohar. E non che io specifico ogni parola perché poi perde tutta la vitalità. Sperimenterai ogni cosa nel tuo tempo. Io pronuncio quel nome come Elohim, con suono K, mentre è scritto con un Hey. Quel suono che non esiste in italiano. Invece di Q. Lo pronuncio come Elohim perché non voglio usare il suo nome invano. Il suo santo nome invano. Ricordatelo. Ed è il perciò parlerò di Elohim e lo scriverò con Q. Anche nella tua vita quotidiana. Se corri per strada e ad esempio sbatti i tuoi piedi e poi maledici, cosa c'entra il creatore con quello? Devi lasciare che le qualità del creatore si curvino in te. Lui desidera ardentemente che diventiamo come lui secondo le sue qualità. Lui è misericordioso, così anche noi dobbiamo. Lui è misericordia, quindi anche noi dobbiamo essere misericordia. Quindi, d'ora in poi, se tu urti in qualcosa che ti ferirà molto, non cercare di usare il suo nome. Sii consapevole di quello che stai facendo. Non usare il suo nome incautamente. Perché ogni cosa che hai costruito dal tuo cuore, in quel momento lo sputi fuori. Che è il significato del proverbio appendere diamanti dorati al naso di un maiale. Così il nome Elohim, come dal momento che questo è menzionato, per la prima volta, Shniskar Mishah, Shebamikra Shebakan, il quale nome è nel verso della Torah, è usato Breshit Bara Elohim, nel principio Elohim creò. Breshit Bara Elohim. Alla seconda indicazione della parola Elohim produsse 13 parole, ossia Yud Gimel Melim. E più avanti le sapevet Knesset Israel per circondare la Knesset Israel, le Shamra e a proteggerla. Qui lui dice, lui è lo Zohar, qui lui dice che le 13 foglie e le 13 proprietà vuole darci una prova della Torah, perché la Torah è la sorgente di ogni cosa. Dopo la prima menzione di Elohim e la seconda menzione sono 13 parole. E tra queste due indicazioni sono date 13 parole delle qualità di misericordia di cui Elohim protegge la Knesset Israele. Shehen, quelli sono. Preposizione. Preposizione, eh? Et Hashamayim, il cielo. Ve et Ela Haaretz, terra. Ve Haaretz, Ela, terra. Haita, era. Tohu selvaggia. Uvohu è vuota. Vehoshech è oscura. Al sopra, pnei la superficie. Tohom del abisso delle acque. Veruach è lo spirito, fino alla parola Elohim, la parola di congiunzione è. Vav nell'ebraico, entrambe le parole diventano come una sola, con una parola seguente scritta l'una con l'altra, e per questa ragione diventa come una. Prefisso, ve come prefisso. Quello che vuole dire tra le due indicazioni di Elohim, 13 parole. Dehainu ad Elohim merachefet vegomer. Quindi, stare fino alla prossima menzione della parola Elohim. Si liberava, eccetera, con cui è indicato che Elohim protegge l'entità Knesset Israele. Ora abbiamo semplicemente tradotto il primo ot paragrafo dello Zohar. E ora iniziamo con la spiegazione del pacchetto Hasulam, il pacchetto, il commento di Yehuda Ashlag, un grande cabalista. All'inizio sperimentiamo pochissimo, perché non abbiamo i chili. Siamo tutti nati come animati, né? Come animali, e gradualmente dobbiamo sviluppare il sentimento per lo spirituale, perché questo non è dato all'umanità. Tutti noi dobbiamo svilupparlo. È per questo motivo che un uomo diventa un vero uomo solo quando inizia a lavorare su se stesso. Certo, siamo tutti esseri umani, perché agli occhi del Creatore siamo tutti perfetti. È solo dentro noi stessi che ancora noi sperimentiamo. Non sperimentiamo. Non sperimentiamolo. Quindi, noi non sviluppiamo nulla. Non otteniamo nulla. Ma ci purifichiamo, ci rendiamo trasparenti e come risultato otteniamo più intuizioni, otteniamo un sentimento per lo spirituale reale e l'intelletto. Tu non puoi vederli separati. Nel nostro mondo abbiamo sentimento o intelletto. Se un uomo usa solo il suo intelletto, allora è schiavo del suo intelletto. E quando fa tutto con il suo cuore, trascura il suo intelletto. Separati l'un l'altro, non portano realizzazione alle persone. Deve venire un percorso nel mezzo, in cui i cuori si fondono con l'intelletto e l'uomo non sente più separazione tra il cuore e l'intelletto. Prima che l'uomo arrivi alla Kabbalah, nell'ebraico Kabbalah, dirlo è una cosa. Ma la sua testa pensa anche a qualcos'altro e anche il suo cuore. Dirlo è una cosa, ma la sua testa pensa anche a qualcos'altro e anche il suo cuore. Questi sono i tre regni. Per questa ragione tutte le perplessità vengono nelle persone. Tutte le forme di impotenza vengono come un risultato di questo, anche fisico. Attraverso la Kabbalah riunirai l'intelletto è il sentimento. E poi, come risultato, otterrai il percorso di mezzo. E quello è la reale realtà. Solo nel mezzo possiamo raggiungere la realizzazione. Allora possiamo sperimentare miracoli ogni giorno. Non abbiamo più bisogno di profeti perché tutti quei profeti hanno trasformato con enorme devozione la loro mancanza terrena nel nulla. Noi non abbiamo bisogno di fare quello nella nostra generazione. Quello che dobbiamo fare è portarci in armonia con le forze spirituali dello Zohar, che ci viene incontro, renderci ricettivi. E quello ci porta la luce. Non sono io che faccio qualcosa, ma la luce sta lavorando con me. È l'unica cosa che devo fare è rendermi come cera bianca. Quello è il problema. Questo è molto difficile. Abbiamo tutti l'atteggiamento di noi sappiamo tutto meglio. Così, quando leggi queste parole, lavora duramente a questo atteggiamento di noi sappiamo tutto. Inizia a lavorare alle tue inclinazioni malvagie. Non nel tuo lavoro, naturalmente, perché lì devi essere uno specialista, ma nello spirituale non sai con chi sei occupato. Fai te stesso ricettivo e riceverai. Ognuno di noi riceverà assolutamente.